per svanire come mai nessuno. Voglio uscire insieme dalla camera scura. Vorrei che tutto tornasse come prima. Cuori leggeri, carta velina. Se Maria Antonietta non fosse la regina, non la porterei alla ghigliottina. Se Maria Antonietta non fosse la regina, non la porterei alla ghigliottina. Anime salve di paraffina, se mi allavate in candeggina. Qui tutto odora di naftalina, in questo recinto l'amore.